far col vento andar, a lo scompare d'ogni stella, nasce in terra un sogno d'or, forse l'anima sorella in quel sogno trova il cuor. Quando la sera discende ed il suo velo distende,